Eccoci con l'attrice Monica Belardinelli che è in scena in questi giorni a Roma con La Morsa di Luigi Pirandello allo spazio 18B fino al 18 febbraio. Monica, ben ritrovata. Ciao Federico, ciao a tutti. Tutto Come stai? Tutto bene? bene, tutto bene. Primo bilancio del primo Della fine prima settimana? settimana. Tutto molto bene, è stata un'esperienza abbastanza particolare perché lo spazio 18B che ha aperto la compagnia di Masnadieri un anno fa è uno spazio molto piccino, ma proprio per questo assolutamente duttile. Quindi la scelta del regista è stata quella di costruire un palcoscenico come una sorta di ring e quindi avere tutti gli spettatori su tutti e quattro i lati, diciamo, del palco. E quindi c'è un contatto veramente, ma veramente diretto con ognuno degli spettatori che partecipano quasi a questi dialoghi, a questa interrogatori a volte, oppure confessioni che questi personaggi di Pirandello fanno. Ecco, a questo proposito, ci descrivi la morsa? Allora, La Morsa è un atto unico di Pirandello, pensa, del 1892 ed è la storia di Giulia, che sarei io, che mette fine a una relazione con il suo amante. Perché probabilmente pensano di essere stati scoperti dal marito di Giulia. Sostanzialmente questa è, in sintesi, la trama di questo atto unico. In realtà ciò che è interessante e divertente per noi attori che lo facciamo, ma credo anche per il pubblico appassionante, è il concetto della morsa, che è non solo i dialoghi serratissimi che ci sono prima tra lei e il suo amante, poi tra lei e suo marito, ma è anche il tipo di linguaggio pirandelliano che non ti molla mai come attore, ti richiede una precisione, un'aderenza esattamente a quelle parole, a quelle pause che lui scrive in maniera quasi ossessiva in alcuni punti. Quindi dal punto di vista attoriale, la morsa è anche il tipo di linguaggio, della scrittura di Pirandello. Monica, quando e come è partito il progetto e tu come ci sei entrata? Allora, io conosco la compagnia di Masnadieri, è stata fondata 11 anni fa da Massimo Roberto Beato e Jacopo Bezzi, in questo caso regista, cioè attore Massimo e regista Jacopo, in accademia, perché noi abbiamo fatto insieme fin dalla prima fase dell'Accademia di Provini. Quindi poi siamo stati presi insieme, loro hanno fatto un percorso da registi e da attrice ed è nato anche, a parte un'amicizia, un sodalizio artistico, un'idea proprio di fare teatro. Loro hanno aperto questo spazio e quindi l'idea è quella di formare una compagnia stabile che affronta diversi testi. In questo caso ci piaceva proprio la sfida con una drammaturgia italiana, quindi con un personaggio come Pirandello. E perché Pirandello oggi, appunto, a parte la modernità della trama di questo atto unico, perché poi Giulia è una donna che amava suo marito, ma finisce nelle braccia di questo amante perché si è sentita trascurata. E se tu pensi, questo è un testo di Pirandello del 1892 in Sicilia, quindi la modernità del tema, del concetto di amare, essere amata, di quanto invece c'è l'immagine, il bisogno di costruire una famiglia, una bella casa, al di là di quello che poi invece si costruisce all'interno. Sì. È un po' come una Nora di Casa di Bambola. Sì. Senti, oltre a questa modernità, cosa apprezzi della scrittura di questo testo? Sono i dialoghi che ci sono tra i vari personaggi sono veramente pazzeschi da affrontare come attrice, perché lui naturalmente, come sappiamo, ha anche una descrizione molto precisa di didascalie, di pause, e lì per lì ti viene, dice, vabbè, lo facciamo ora nel 2018, andiamo un po' oltre queste cose. Invece è una scrittura precisissima, quasi, cioè da regista, perché sono azioni anche non verbali che lui descrive alla perfezione. Per cui non puoi non affidarti totalmente a quello che dice il testo, a quello che c'è scritto sul copione di Pirandello, perché le pause, i sospiri, i silenzi costruiscono la vera e propria azione teatrale. Quindi d'attrice è strabiliante, perché all'inizio ti sembra un po' ostico, perché comunque sia un linguaggio complesso anche nella struttura della frase. Poi invece se ci entri dentro è un viaggio pazzesco, perché ti guida in ogni tua scelta anche di agire in un modo o no sull'altro personaggio in scena. Allora, ricordiamo l'appuntamento con lo spettacolo La Morsa di Luigi Pirandello allo spazio 18B a Roma fino al 18 febbraio. Monica Belardinelli in scena, insieme chiaramente ad altri attori che ricorderai tu, Monica. Assolutamente. Certo, Massimo Roberto Beato, che è interprete del personaggio di mio marito, Matteo Tanganelli, che è il mio amante, e Veronica Rivolta, che fa Anna la cameriera, ma in realtà ha una funzione quasi di spettatrice di tutto quello che avviene all'interno di questa casa. La Bene. regia è di Jacopo Betti e la composizione d'ensemble che è di Elisa Rocca, che è una nostra collega artista, che ha seguito un percorso con un maestro giapponese, Suzuki, per 2 anni, e ci ha aiutato in tutto il lavoro più fisico per questo spettacolo. Ha lavorato con noi durante le prove, durante il training, proprio per preparare anche il corpo a una messa a scena di un certo tipo. Bene. Allora Monica, un abbraccio, un in bocca al lupo e ci si sente Un presto. abbraccio a te, Fede, a prestissimo, grazie a tutti. Ciao. Ciao.